sulla tua pelle gonfia vela all'aurora. Una speranza di sogni sconosciuta signora. Ciglia lunghe da solo non mi troverai, nelle tue mille paure sarò quel che vorrai, solo dove c'è niente così niente amerai. Marinai nel mare contro vento, amerai anche dove il mondo è spento. Marinai con grinta verso il sole, amerai ogni incanto che ci assale. Sarò quel che vorrai, dove spesso fa male, con dolcezza mi salverai. Marinai nel mare contro vento, amerai anche dove il mondo è spento. Marinai con grinta verso il sole, amerai ogni incanto che ci assale. Spento, marinai con grido.